Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridì ai microfoni martedì sera, e do il benvenuto a tutti coloro i quali continuano ad ascoltarci con tanto piacere. Saluto i nostri Giorgi e Imola, i quali non sono qui con noi questa sera, e sono particolarmente contenta perché oggi è proprio una bella giornata. Tra l'altro iniziamo una serie di eventi, di cose che celebreremo qui a Bruxelles proprio a partire da domani fino al prossimo 9 maggio. In particolare volevo, prima di avviare questa nostra ricchissima puntata, ricordare il 1° maggio, che celebriamo domani e che è importante continuare a celebrare, perché proprio in un tempo come quello odierno, caratterizzato da crisi economiche e da questa parola che sembra un po' essere diventata un tormento, cioè l'austerity, affinché comunque questo giorno possa essere un giorno di riflessione in cui si possono riscoprire dei valori fondamentali ed importanti, come per esempio la nostra Costituzione cita all'articolo 1, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e questo non deve restare semplicemente scritto su un foglio, su un pezzo di carta, sebbene ovviamente aulico, già che parliamo della nostra carta costituzionale, ma deve essere qualcosa di importante, perché i recenti eventi a cui abbiamo potuto assistere purtroppo attraverso la stampa scritta e parlata ci dimostrano che ogni giorno ci sono porte che si chiudono, porte di case che non si aprono più, perché da qualche parte nel meccanismo c'è qualcosa che non va, e noi siamo sicuri che ci possa essere qualcosa per poter cambiare lo stato delle cose. Quindi domani, per chi si trova in giro a Bruxelles, per chi avrà piacere di fare un giro, una passeggiata e di muoversi attraverso questa nostra bella capitale, potrete ritrovare più eventi, e sicuramente la maggior parte sarà localizzata tra Place Sainte-Catherine e la Grand Place, e quindi domani è il 1° maggio. Però le feste, le attività proseguono, perché proprio sabato invece, il 4 maggio, ci sarà la giornata delle porte aperte, la giornata porte aperte, che praticamente aprirà le sue porte, dove sveliamo quindi anche il significato della manifestazione, per tutti coloro i quali hanno curiosità ed interessi a visitare il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comitato Economico e Sociale, il Comitato delle Regioni. Le attività cominciano alle 10 del mattino e proseguiranno fino alle 17, e soprattutto al Parlamento europeo sono tante le attività che sono organizzate, e quindi per quanti avessero dei bambini curiosi di vedere anche per esempio la plenaria di Bruxelles, domani, o meglio sabato, è la giornata ideale per poterla visitare. Tra l'altro proprio al Parlamento saranno tanti gadget messi a disposizione, non solo per i più piccoli. Bruxelles prosegue poi la sua festa con la festa dell'Iris, che è una festa che riguarda un po' tutte le comunità, e così come accade per il 1° maggio saranno tanti luoghi di ritrovo e celebrate proprio in occasione di questa festa. Per esempio, per restare nella zona europea, sicuramente ci saranno delle attività al Par Leopold, pensate ancora e nuovamente per i più grandi e per i più piccini. Io mi fermerei qui, già che questi sono eventi effettivamente che animano questa nostra agenda culturale. Passerei la parola a Dani M, il quale ha un suggerimento musicale per noi. Dani, ti passo la parola. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Bruxellando, martedì sera, martedì ai microfoni, dopo questa bella canzone che ci è stata suggerita da Dani M in regia. Come dicevo in apertura, questa è una puntata estremamente ricca, e mi fa piacere sottolineare che riusciremo a parlare con un'autrice che è veramente poliedrica, perché si cimenta sia nella poesia sia nella prosa, e ci racconta di temi anche a noi molto cari, a noi che per vari motivi abbiamo deciso di lasciare la nostra terra natia e di recarci, in questo caso, all'estero in cerca di giorni migliori. Do il benvenuto a Radio Alma, Bruxellando, ad Adriana Pedicini. Adriana, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Saluto tutti veramente con un saluto carissimo dall'Italia, perché credo che questo nome faccia emozionare anche chi dall'Italia è stato via da tanto tempo. Assolutamente, c'è qualcosa che resta in noi e che è un elemento proprio di italianità. Tra l'altro ne parlavamo proprio martedì scorso con un nostro ospite, il quale diceva che alla fine, nonostante tutto, lui è in Belgio da 30 anni, c'è quel cuore che continua a battere, che chiaramente è italiano. Le radici non si possono comunque decidere del tutto, rimangono nel, magari nascoste nell'animo, e da lì che poi passano i rami che si protendono verso il futuro, verso nuove forme di vita, verso la vita all'estero, ma le radici rimangono comunque salde, non si possono sradicare, altrimenti si sradicherebbe la propria identità. C'è la parte più vera, più intima e più caratteristica di ciascuno di noi. Adriana, lei è mai stata al di fuori? Non fanno che arricchire, che aggiungere valore, valori, però insomma c'è quel quid che non si può assolutamente cancellare, è come cancellare se stessi, la propria identità. Assolutamente. Adriana, mi tolgo una curiosità, lei ha mai emigrato oppure è andata al di là dei confini? No, non sono stata mai, non mi sono allontanata mai per necessità lavorative o per altri scopi, diciamo di natura, dettati dalla necessità, sono stata all'estero, non moltissimo poi tra l'altro, solo per qualche viaggio di piacere o in gita di istruzione con i miei allievi, ma insomma abbiamo visitato la Spagna, la Grecia, non tantissimo. Beh, però comunque insomma la proiezione, diciamo, di me verso terre mai visitate o terre addirittura sconosciute è forte in me, tant'è che mi seguo tutti i documentari, tutte le trasmissioni che portano lontano e che ci fanno conoscere mondi meravigliosi che vorrei tanto visitare, ma non è possibile, insomma. E vabbè, la fantasia, oppure come attraverso i documentari si riescono veramente a supplire tante lacune. Ci racconti, Adriana, come nasce la sua passione per la scrittura? E dunque, la mia passione per la scrittura sicuramente è una predisposizione innata, ma perfezionata, vorrei dire, dal mio lavoro, dai miei studi, innanzitutto gli studi di carattere umanistico, in particolare gli studi sulle lingue classiche, lingue e letterature classiche, latina e greca. Poi io ho insegnato nel liceo classico di Benevento per 37 anni, quindi ho letto tantissimo, ho insieme agli alunni, ho spiegato tantissimo la poesia, ma rapportandola anche alla poesia comunque moderna, contemporanea, italiana e straniera, non sostenizzandomi solamente sulla poesia latina o la poesia greca, che comunque rimangono il terreno fertile, l'humus da cui parte la poesia mondiale, vorrei dire. C'è lo stesso Dante o Shakespeare o tutti gli altri poeti e scrittori esistenti, comunque risalgono direttamente o indirettamente alla poesia greca, innanzitutto, più che a quella latina, alla greca. È da lì che è partita la civiltà, è da lì che è partito lo sviluppo del pensiero e lo sviluppo dell'arte intesa in maniera ampia, e in particolare la poesia, la letteratura. C'è un autore di cui non smetterebbe mai di leggere i versi? Come dicevo prima, rifacendomi alla poesia greca, Omero e Saffo. C'è un po' la poesia epica per la sua molteplicità di input verso la conoscenza e verso la costruzione della civiltà occidentale, e poi la poesia lirica, particolarmente la poesia di Saffo, per la delicatezza e la profondità insieme del dettato poetico, per la novità anche che rappresenta e per la raffinatezza dei sentimenti che trovano di cui possiamo trovare riflesso perfino in un Leopardi, oltre che ovviamente in Quasimodo, che l'ha tradotta. Malta o in tanti altri. Cioè è la scoperta del fare poetico e la scoperta del divenire poetico, cioè la scoperta di quella infinita possibilità che ha la poesia di dire, innanzitutto di essere ontologicamente autosufficiente, ma non basta, perché lo scopo della poesia è quello di provocare sviluppi infiniti, per cui mentre l'artista possiede una conoscenza di sé e del proprio poetare, nello stesso momento porge al fruitore, a chi legge quella poesia, infinite possibilità di riprendere quella poesia, di modificarla e di aggiungere e di creare nell'istante stesso in cui legge. Insomma, il fare poetico è un, pur partendo magari da una materia di origine ordinaria, non voglio dire banale, ma comunque che appartiene al vivere quotidiano, poi viene trasformata con un gioco di metamorfosi, di trasformazioni, in qualcosa che non finisce mai, che non ha mai un limite, si proietta e si sposta sempre in avanti, in un perenne fieri, vale a dire che la poesia è un po' come se crescesse su se stessa sempre, si trasforma e apre un'infinità di mondi possibili, di significati possibili. Infatti anche non si potrebbe, forse non è giusto neppure condensare in una definizione ciò che è una poesia in genere, il concetto di poesia, oppure che cosa possa significare una data poesia in particolare. Assolutamente, assolutamente. Ma arriva a un sì, talvolta anche significati improbabili, quando noi magari interpretiamo, leggiamo una poesia, la interpretiamo secondo la nostra formazione, secondo la nostra sensibilità, secondo le nostre percezioni, magari allontanandoci anche da quello che probabilmente avrà voluto dire il poeta, cosa che non si saprà mai. Assolutamente, assolutamente. Il poeta è sottoposto a tante suggestioni che sfuggono allo stesso poeta, perché come si incomincia a scrivere si sa da dove si parte, non si sa. Assolutamente. E probabilmente lo stesso poeta, nel rileggere un suo componimento a distanza di mesi o di anni, si stupirà di aver detto o non si riconoscerà più, proprio perché la poesia per sua natura è un prodotto, non è un prodotto finito, è un prodotto aperto alla interpretazione o alla percezione di chi va a leggere. Sì, sulla poesia dicevano gli antichi poeti ellenistici, la poesia ha in sé per sé un limite: quanto più è corta, tanto più è limitato il godimento della poesia stessa, tanto più è limitato l'utilizzo, perché se la poesia è corta, è troppo aurica, richiede la preparazione e la partecipazione solamente dei siunetoi. Chi erano i siunetoi? Quelli che avevano la stessa preparazione, la stessa formazione culturale, la stessa preparazione, in maniera da poter penetrare nel contesto di questa poesia che altrimenti appare oscura a chi non ha gli strumenti adatti per leggerla e per interpretarla. Un po' quello che avviene con la poesia ermetica anche del panorama italiano. Ermetico significa chiuso, che non si vuole far leggere, più che non si può leggere, non si vuole far leggere, il poeta non si vuole far leggere, scrive per se stesso, non vuole spiegare. Non vuole dire, non vuole farsi capire, al contrario di quanto diceva il buon poeta Orazio, per cui la poesia doveva essere un prodotto sì piacevole, che conquistasse l'animo, ma che avesse anche uno scopo utile, di utilità, che fosse in un certo senso una forma di scrittura paideutica, cioè che educasse il lettore, il fruitore della poesia. Cioè una poesia avulsa da un fine di utilità etica, non di utilità pratica ovviamente, non aveva ragione di essere. Ma questi sono un po' i discorsi che si sono fatti da Aristotele all'età contemporanea su che cosa debba essere la poesia, se debba essere un prodotto soggettivo che riguardi semplicemente il poeta, o invece debba avere anche, oltre il fine di utilità, anche la dottrina. Lo stesso Dante, il nostro Dante Alighieri, incominciò a scrivere, diciamo, in maniera molto soggettiva, molto intimistica, molto personale. Poi fece il salto di qualità, se lo vogliamo ritenere un salto di qualità, perché poi insomma i critici un po' separano e dettano legge. Il salto di qualità fu quando ritenne di dover introdurre nel contesto, cioè nel contenuto poetico, di dover introdurre la dottrina, vale a dire la riflessione, l'attività riflessiva e quindi poi la filosofia. Infatti se leggiamo poi la Commedia, vale a dire la Divina Commedia, ci troviamo di tutto, dalla filosofia all'astronomia, a tutto ci troviamo. Quindi sono le eterne domande che ciascuno si pone e poi magari a cui ciascuno risponde a proprio modo. Tuttavia queste domande hanno segnato l'intera storia del pensiero estetico dell'Occidente. Quindi, però insomma, mentre i critici, i filosofi cercano di risolvere la complessità di queste domande, magari entro schemi chiusi, entro definizioni logiche, i poeti comunque lavorano, fanno, scrivono, creano, ecco perché il verbo greco poiein significa proprio il fare artigianale, il lavorare con le mani, quindi la poesia che viene fatta a lume di candele, che viene creata, che viene snocciolata, che prende corpo, ecco, dalle mani metaforicamente del poeta che lavora e che non si pone tante domande. Poi è molto importante, perché la poesia sia poesia, è molto importante che obbedisca a quel senso di necessità che sgorga dall'anima. Che cosa significa? Che una poesia, per essere tale, comunque deve essere il succo dell'anima, perché la poesia può essere storia di intelletto, ma è soprattutto storia dell'anima. Assolutamente. Adriana, allora noi saremmo curiosi di ascoltare almeno due delle sue poesie e vorrei che a leggerle fosse lei, perché credo che chi poi scriva le proprie poesie abbia anche l'intonazione, quella giusta, per poterle far ascoltare ai nostri amici all'ascolto. Quello che caratterizza un po' le mie poesie, sia la prima raccolta già pubblicata l'anno scorso, che si intitola Noematia, che è un termine greco che vuol dire piccole riflessioni, è edita da Linee Infinite Edizioni, una casa editrice, ovviamente italiana, una piccola casa editrice, e sono poesie che indagano sulla ricerca di senso della vita. La poesia che leggo adesso, o le poesie che leggo adesso, invece fanno parte di una silloge inedita. Okay. La silloge inedita ha raccolto delle poesie che io ho scritto da luglio 2012 fino a dicembre 2012, in un periodo molto particolare per me, quindi sono il riflesso di questa ricerca di senso, ma all'ennesima potenza, perché nelle prime poesie, le poesie già pubblicate, la ricerca di senso sulla vita in genere, vabbè, però quando si affaccia l'altra medaglia della vita alla coscienza umana o alla mia coscienza, e la ricerca di senso diventa qualcosa di urgente, che coinvolge, che non fa respirare, che soffoca, perché la risposta magari la si vorrebbe subito, la, ris- si ricerca subito. E poi sullo sfondo, ecco, l'eterno quesito, l'eterna domanda, l'eterno enigma: che c'è dopo? Certo, assolutamente. Che c'è dopo? Perché sì, la fede sicuramente ci suggerisce delle risposte, però noi siamo umani, siamo fragili, siamo deboli, e rispetto ad una cosa così potente e così misteriosa qual è la morte, a chi non viene un attimo di angoscia, soprattutto quando in circostanze particolari la si vede un po' più vicina. Poi fortunatamente prendono altre pieghe e allora leggo questo, ecco. Bene, ti ascoltiamo. Di rosa al tramonto, il titolo. Le mani a cuna scivoleranno la mia anima, foglia ingiallita, verso le antiche rive acherontee, appena gli occhi pazienti fisseranno l'ultima luce nello sguardo perduto. Sarò cuore di cerbiatta, spaurito allo strepito dei rami di mirto, e mi adagerò, petalo impalpabile, all'ombra del cipresso, ad attendere, dietro la falcata nuvola nera, l'indice di luce ad indicarmi la via. Incontrerò antichi sorrisi, li riconoscerò tra lunghe ombre di bianco vestite, o sarò risucchiata, granello disfatto di terra, in vortice di aureo pulviscolo, a fecondare solchi assolati. Nei celesti campi sarò semi tra semi, risospinti dal vento alla vita. O profumo di rosa al tramonto, nella brezza che accarezza i ricordi. Bellissima. Questa è una. Veramente bella. Leggiamo anche la seconda, così restiamo nello stesso pathos. Si stilla il cuore in pianto. Si stilla il cuore in pianto di nere perle, nel nicchio doloroso della cupa amarezza, per carezze inespresse di dolci parole. Il sillabo di sommesso negato conforto si avviluppa in un reticolo nero a celare le gocce di sangue che nel palmo raccolgo per astergerti l'anima, e tutte d'un fiato le bevo a restituirle domani, tra poco, quando vuoi, in amato sorriso. E poi leggo anche l'altra. Sì. Ancora un minuto. Ecco, questa poesia mi ha dato il brivido che il tempo per me fosse finito. Invece. No. Così non è. No. Un minuto. Un minuto ancora. Per narrare i miei silenzi inquieti, per rifinire la mia parte di tela, per afferrare i lembi di tormentata fede, per rimestare ancora una volta i colori dell'iride nel mastello dei giorni. Cicala d'estate, saranno miei rami le braccia dei figli, ove d'amore assidue melodie canterò, e scovandomi tra le tremule foglie dei mesi, i piccoli bimbi di teneri baci molceranno il mio cuore di nonna, barbugliando malsicure parole dalle boccucce di rosa. Tu mi sorriderai e socchiuderai gli occhi gonfi di noi. Ecco, questa è la terza poesia. Guarda, veramente se avessimo tempo, ma ahimè il tempo è tiranno, però so che molte tue poesie sono anche online, vero? Sì, sono sono... Quindi magari ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, per quanti volessero approfondire anche le poesie. Su YouTube o anche su Google si trova a mio nome, se... c'è parecchia roba, insomma. Ora invece cambiamo brevemente argomento, abbiamo ancora qualche minuto, e tu hai anche scritto racconti. Sì, io ho pubblicato nel 2011 una serie di racconti che, con cui ho vinto anche, a me non piace citare queste cose perché insomma... Beh, allora lo dico io per te, sei stata finalista nel premio internazionale... Ho vinto il primo premio nel... il concorso internazionale di narrativa Taormina 2010. E anche nel premio Jacques Prévert sono stato... Esatto. E comunque vale molto di più la stima e la condivisione, perché quando si scrive, come dicevamo prima, non si scrive solo per sé, si scrive anche per gli altri. L'importante è che gli altri trovino nella scrittura dei segni che possono divenire segni propri, che possono divenire pezzi della propria vita, vale a dire che nella scrittura ci sono, sono contenuti, diciamo, le possibilità di creare delle vite che diventano poi, nel momento in cui il lettore legge, diventano aspetti, pezzi della propria vita, della vita personale. Insomma, l'importante è che il lettore si riconosca in quello che va a leggere, e soprattutto in questo silogio di racconti che si intitola I luoghi della memoria. In realtà i luoghi non sono solo luoghi fisici del Sannio beneventano, ma sono soprattutto i luoghi dell'anima, cioè i luoghi dove, metaforicamente, dove si è costruita l'identità di ciascuno, l'identità fatta di tradizioni, fatta di memoria, fatta di riti, di usi, di costumi, fatta di affetti. È uno sguardo quindi al passato, ma non uno sguardo, uno sguardo nostalgico di chi sa che il tempo è perduto per sempre, no? Lo sguardo al passato è per rivivere tutti quegli eventi, quei momenti e quegli aspetti che hanno costruito l'identità, la nostra identità, e pertanto vanno recuperati, perché questa identità rimanga la base anche per il futuro e anche per le nuove generazioni, perché senza radici, come si diceva prima, assolutamente, non si può andare avanti, senza radici perdere la memoria e recidere le proprie radici, e senza memoria non ci si riconosce più. Immaginiamo una persona che improvvisamente perda la memoria, non sa più chi è. Quindi la memoria serve a riconoscersi, e con questo bagaglio personale poi camminare nel mondo, non chiudersi ovviamente nelle proprie, negli angusti spazi delle proprie provenienze o dei luoghi in cui si vive, ma aprirsi al mondo, ma avendo ben chiaro chi si è e che cosa si è e quale patrimonio si porta avanti, anche per donarlo agli altri e per riceverne dagli altri. Assolutamente. E vorrei leggere qualcosa di questo racconto, che è uno di quelli più amati dalle persone che leggono il mio libro, che, ripeto, si intitola I luoghi della memoria, edito da Arduino Sacco, editore. Ti ascoltiamo. Allora, la vita, vabbè, per fare in breve, per essere più breve, non leggo l'introduzione, cioè i primi righi, vado subito al pane, fette di pane allora il sapore e il profumo robusto e sicuro del pane è riservato all'infanzia. Questa appoggiava tutta e cresceva intorno ad una pagnotta di pane scuro con su tanta farina bruciacchiata che, allungando le dita di nascosto, l'abbivamo come zucchero vanigliato. Fette di pane asciutto, fette impregnate di vari sapori e altrettanti colori, morbide, tostate, annegate in ciotole di latte spumeggiante, ancora caldo di tepore animale, frizzanti per una spruzzata di vino o talvolta di aceto, ricamate a ghirigori di filigrana di biondo olio, intrise degli umori aromatici delle nostre erbe, levigate con sfere succose di pomodori maturi. Puntuale e generoso, era sempre lì il pane nella credenza, unico alimento a portata di bocca. La maga del sacro rito era la nonna Andreana. Quanta bontà e quanta sicurezza in lei. Non sapeva né leggere né scrivere, ma aveva saputo allevare i numerosi figli con sicura dolcezza. A tutti aveva fatto dono della sua stabilità, della sua grazia. A tutti aveva trasmesso un senso profondo della religione, un senso sacro degli affetti domestici, un rispetto istintivo per gli uomini e le cose. Salto un po' la descrizione del suo abbigliamento. Le sue mani erano morbide e carezzevoli come piume, la sua parola sempre dolce e suadente, la sua anima colma sempre di conforto per la famiglia. Con le mani, appunto, riusciva in brevissimo tempo a dare forma ad una bianca palude di pasta lievitata che da tempo riposava nella madia, suddividendola in cestelli di vimini. Questi, riempiti a metà, pian piano si andavano colmando fino all'orlo, continuando la pasta a lievitare sotto un telo di canapa atteso di coprire i panieri. La nonna ne era gelosa in quei momenti e cercava in tutti i modi di liberarsi di noi ragazzini, che quasi monelli dispettosi tentavamo tutte le strade per starle tra i piedi, fingendoci buoni e obbedienti. Poi furtivamente affondavamo le dita in queste morbide forme, osservando stupiti come i buchi impressi dalle dita subito scomparissero al rigonfiarsi spontaneo della pasta. Una volta però uno di noi si accorse per caso che sulla morbida crosta delle forme di pane adagiate nei cesti dopo la cottura, la superficie era raggrinzita lungo i bracci di una croce tracciata nel centro. Avvitiamo, tutti noi rimanemmo stupiti e attenti osservammo se la stessa cosa si evidenziasse anche sulle altre forme. Fu proprio così. Attingemmo allora, senza che nessuno ci facesse lunghi discorsi, il valore, per così dire, sacro di quel rito che aveva avuto il suo inizio fin dalle 3 del mattino. Infatti non eravamo mai riusciti a capire bene perché fosse necessario ritrovarsi in 2 o 3, anche 4 di loro, a compiere a quell'ora ancora buia dell'incipiente mattino un lavoro che secondo noi poteva essere eseguito anche di giorno. Come sempre avviene, non convincendoci le spiegazioni logiche, fantasticavamo sul mistero di questi convegni, spiegandoceli come una sorta di riti magici atti a proviziarsi, complice la notte, la buona riuscita dell'operazione. Credevamo che la magia avesse il compito di favorire e soddisfare le esigenze più semplici della vita umana, mentre in caso di estremo bisogno o di grandi favori bisognava piamente rivolgersi ai santi. Pensavamo ciò era perché ad ogni nostra richiesta di assistere alla fase preliminare di quel lavoro opponevano un secco rifiuto, apostrofandoci: dormite voi. Sicché l'unica cosa che ci era permessa era quella di trasportare i panieri in fila l'un dopo l'altro lentamente fino al forno al momento della cottura. Il forno a cupola occupava un angolo dell'ampia cucina alla destra del focolare. Basso di cielo, era sufficientemente ampio per poter contenere fino a 15 o 20 pagnotti in una volta. Uno sportello di ferro chiudeva l'apertura e uno più piccolo nascondeva la porticina laterale attraverso cui si spiava l'andamento della cottura. Il forno veniva dapprima surriscaldato con legna ben secca che ardendo scoppiettava nel suo ventre lanciando lunghe lingue di fuoco all'esterno su per la muratura annerita. Ne veniva ben bene spazzato il pavimento con fronde di rami che fossero fresche, altrimenti la brace ardente, residuo del fuoco di prima, le avrebbe bruciate. Compiuti i preparativi, la nonna, dalle guance ormai completamente rosse e cocenti, ci chiamava, invitandoci a procedere piano. Come sacerdotessi allora filavamo con punte fino a deporre le nostre primizie come offerte votive sull'altare del forno. E ancora, con senso religioso, si attendeva la magica trasformazione delle potenziali pagnotte in pane odoroso e croccante. Saltavamo, cantavamo, danzavamo, giocando come in misterici riti e pregustavamo il piacere di assaporare delle ciambelle della stessa pasta del pane che ci venivano offerte poco prima che le forme venissero tirate fuori dal forno. Si intendeva in tal modo ringraziare il buon Dio della felice riuscita di tutta l'opera e noi eravamo estranei. tramite che concretamente si avvantaggiava dell'offerta votiva. Finalmente apparivano uno alla volta, regalmente, le forme d'oro brunito, croccanti, odorose. Ancora cocenti erano deposte in larghe ceste di vimini e ricoperte con panni di tela grezza tessuta in variopinte trame. Così venivano trasportate nella stanza che fungeva da dispensa, le cui pareti erano totalmente impregnate del profumo di cibi vari. Questo avveniva perché esse, le pagnotte, non fossero toccate o maneggiate, soprattutto dovevano essere desiderate, in attesa che il pranzo collettivo ne richiamasse la legittima presenza sulla tavola, profumata di lino fresco di bucato sotto lo sguardo severo del nonno e la magnitudine della nonna, mentre un fiasco di vetro verde scuro adagiato in un cestello di vimini effondeva nell'aria un corposo profumo che a noi piccoli sembrava di cioccolato. Adriana, io direi di fermarci qui perché potremmo andare veramente... Allora, siamo ahimè in chiusura perché il tempo veramente scorre veloce. Toglici soltanto una curiosità. Stai scrivendo già qualcos'altro? Cioè, cosa bolle in pentola? Sì, sto scrivendo altri racconti che preferisco ad un'eventualità di scrivere qualcosa nota più ampia, tipo un romanzo, perché mi piace, mi dicono una grande capacità descrittiva sia degli stati psicologici sia degli ambienti, per cui mi piace cogliere questi flash come attraverso una macchina fotografica, raccontare quello che mi impressiona, dare un respiro più corto ma più profondo, perché si sa che in un romanzo ma ci sono parti, è così, l'architettura di un romanzo è così, ci sono momenti interessanti e coinvolgenti e poi delle fasi diciamo di stanca un po' più. Allora preferisco il taglio breve del racconto, che poi non sono mai brevissimi. Comunque sto scrivendo altri racconti, nonché continuo a scrivere anche poesie, e posso dire che se qualcuno fosse interessato a alla serie di racconti, quindi al libro di narrativa o al libro già edito di poesie, può scrivermi una mail, poi vedrò io come fare. Assolutamente, ricordiamo quindi la tua email. Sì, Adri Pedi, quindi metà nome e metà cognome. Ok, Adri Pedi @ virgilio.it. Quindi ricordiamo adripedi@virgilio.it. Sì. Adriana, noi ti ringraziamo. Sono io che ringrazio voi, siete stati gentilissimi. E ti auguriamo veramente tutto il meglio e magari facci sapere, magari l'anno prossimo con la nuova edizione di Brussellando potremo rifarci nuovamente una bella chiacchierata. Come no. A presto, buonasera. Buonasera, grazie a tutti. Arrivederci. Buonasera. Ed eccoci nuovamente qui, dopo questa bellissima intervista con Adriana Pedicini, con la quale avrete potuto vedere abbiamo veramente trattato una varietà di temi, e che a dimostrazione di quella che è la poliedricità della scrittura di Adriana, la quale è impegnata sia sul lato della poesia che sul lato dei racconti brevi. Quindi salutiamo ancora Adriana, la ringraziamo per aver partecipato e per aver arricchito questa nostra puntata di Brussellando. Questa sera in assenza di Fiordaliso, perché come sapete non è qui con noi, e anzi io saluto sia Georges sia Fiordaliso, volevo ricordarvi un romanzo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è quello di Diego Barani, dedicato a Bruxelles, Il cacciatore di talenti. Volevo ricordarvelo perché ho avuto il piacere di rileggerlo, avendolo in formato poi PDF, in formato ebook, ho avuto la possibilità di rileggerlo. In effetti, per quanti vivono a Bruxelles e per quanti si interrogano sulla singolarità di questa nostra città, veramente vi consiglio di leggerlo, perché ci sono tanti spunti di riflessione che non riguardano soltanto il nostro essere stranieri, quindi il nostro essere in un certo senso radicati in questa città in quanto expat, ma proprio vi permetterà di capire quelle che sono le sfaccettature di questa città, che non sono di semplice comprensione. E tra l'altro ammiro la scrittura di Diego, perché anche raccontato con gli occhi poi di uno straniero, sicuramente ambientato perfettamente a Bruxelles, storie di belgi che potrebbero essere veramente verosimili. Credo che quando uno scrittore arrivi a descrivere così bene anche quello che è diciamo il sentimento di persone che vivono in questo paese prima di noi, allora vuol dire che questo elemento di integrazione tutto sommato funziona e racconta poi storie diciamo a diversi livelli sociali, una storia di una coppia belga le cui ambizioni sono totalmente diverse invece del dottore un po' più diciamo borghese che caratterizza il quinto racconto. Ci sono anche storie che poi riguardano invece un altro tipo di emigrazione, non c'è soltanto quella che arriva a Bruxelles perché intende raggiungere degli obiettivi come quelli istituzionali che soprattutto guidano molti dei nostri giovanissimi che lasciano soprattutto l'Italia, ahimè l'Italia resta ancora tra i paesi della zona euro, tra quelli con il più alto tasso di emigrazione soprattutto giovanile, il che ovviamente ci fa riflettere proprio alla vigilia anche di questo primo maggio di quelle che sono le problematiche di questo nostro paese. Ma come vi dicevo c'è anche un altro tipo di emigrazione che è arrivata ancora prima, che si esprimeva attraverso queste valigie di cartone che oggigiorno sono state sostituite invece da un computer e da una magari a volte veramente piccolissima valigia, e che racconta poi un altro modo di essere italiano, racconta poi una genialità che sicuramente continua ancora a contraddistinguerci e che ci permette tutto sommato, chissà, nostro malgrado direi, ad un certo punto ne parlavamo, ricordo anche col nostro George, su questa nostra capacità, questa flessibilità, duttilità che ci caratterizza in maniera peculiare, oserei dire quasi come un marchio di fabbrica. Quindi io ne ho approfittato, ho rubato magari questo brevissimo spazio che abitualmente è della nostra Imola, perché nel rileggere il romanzo di Diego effettivamente ho ritrovato ulteriori elementi di riflessione che mi faceva piacere condividere con voi questa sera. E noi siamo ormai quasi alla fine, ahimè il tempo è tiranno, ci sono tante cose che ancora potremmo raccontarvi e che vi racconterò proprio velocissimamente, perché vedo già Dani M in regia, il quale smanazza e mi dice che devo chiudere, ma ovviamente lui è il regista, quindi sono quasi lì. Vi ricordo un altro evento importante per la comunità italiana, ma per tutti coloro i quali ci ascoltano: il 24 maggio alle ore 20 all'Ancien Belgique, per la prima volta almeno da quello che io ne so, Gianna Nannini è in concerto a Bruxelles con un tour che promette di essere veramente degno di lode. Quindi per tutti coloro i quali volessero saperne di più vi invito a visitare il sito dell'Ancien Belgique e lì potete trovare tutte le informazioni di cui necessitate, soprattutto in vista dei costi che sono diversi a seconda del posizionamento ovviamente in sala. Questo mi porta a concludere questa puntata di Bruxellando. Io saluto ancora i nostri Giorgio Fiordaliso, il nostro Dani M in regia, auguro a tutti un'ottima settimana e parleremo poi martedì prossimo della settimana dell'Europa, della giornata dell'Europa che sarà il 9 maggio, perché in riservo Bruxellando ha una sorpresa veramente bellissima, siamo molto contenti perché ci siamo riusciti, ma di tutto questo vi potrò parlare la settimana prossima. Buona settimana a tutti, buon primo maggio e a martedì, un bacione e un abbraccio da Maridì.